24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Vogliamo elettori? Siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca! Il clima è questo, ne rimarrà in piedi uno solo, uno. Renzi è infuriato, pare, dopo la conferenza di ieri di Letta. Mi ha preso per il culo, dice il Fatto. Letta è infuriato con Franceschini, mi hai tradito, lo ha convocato ieri. Non sarai più ministro con me se resisto al governo. Poi Renzi e Letta si sono visti, pare che Renzi gli abbia detto: lascia Enrico, diremo che era un periodo di merda, hai fatto tutto il meglio che potevi. E Letta gli ha risposto: guarda che io non sono come te, non cerco seggiole. E poi come a scuola, Letta ha presentato l'impegno Italia e Renzi pare abbia detto: ma quello è il mio programma, mi ha copiato. Fino alla mamma di Renzi, che è stata raggiunta dalla stampa e dice: ho affidato mio figlio alla Madonna. Enrico, stai seduto. Nessuno ti vuol prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo. L'hashtag è io sono sereno, anzi zen, mi verrebbe da dire. Dovesse andare male questa vicenda, penso che potrò andare a insegnare pratiche zen in qualunque monastero orientale. Ora, Vincino, buongiorno. Buongiorno. Io ho un problema serio. Sì. Sai come si chiama il mio gatto, anzi la mia gattina? Come si chiama? Non è uno scherzo, Zen. No. Zen. L'ha detto Paolo Del Debbio, che saluto. Paolo Del Debbio, Zen. Oh, sì. Ieri, quando ha sentito questa cosa, mi ha guardato, ha fatto miau. Cioè, io ho detto: ma guarda, lo so, sei tu Zen. No, quello ha detto che è lui Zen, io sono Zen. E questa mi guardava e diceva: ma sei tu Zen? E non lo so. Avevo questo problema qui, non sapevo. Sai come si chiama il primo posto dove ho fatto attività politica da giovane? A Palermo, forse. Il quartiere Zen. Il quartiere Zen. Anche tu sei un po' Zen, allora. Molto Zen, esattamente. Che poi è diventato il più grande posto di spaccio della Sicilia. Vabbè, dopo qualche anno. E qui mettiamo insieme due notizie di ieri. Se vuoi, un libro. Sì. Che si chiamava Lo Zen e il tiro con l'arco. Mi sembra che pure a caso c'è la seconda parte. Vale. Il tiro con l'arco, sì, sì. O il tiro con le pistole. Al ragazzi, ma è una roba incredibile leggere i giornali di oggi. Ma tutte vere frasi che ho preso qui, mi ha preso per il culo. Il programma è mio. Lascia, molla, tira. No, rimango. Iena che scrive: due galli nel pollaio. Peccato che il pollaio siamo noi. Questo è. Vabbè. Dai, allora apriamo il Parlamento, che avete già sentito gli ospiti di oggi. Sono Vincino, c'è sempre Nicole Minetti, ovviamente è qui come un cartonato, e Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta Colonna su Rete 4 il lunedì, il programma migliore dopo Funamboli su 7 Gold, condotto da me medesimo. Beh, certo, questo è ovvio. Ovvio, questo si sa, è scontato, no? Tutto il mondo ne parla, d'altronde. Allora, Paolo Del Debbio, cosa sta succedendo? Ah, intanto i giornali raccontano, i pronostici danno che Letta entro oggi dovrebbe dimettersi, ma mai il condizionale è più importante come in questa occasione. Che succede Del Debbio? Come finirà? Ma come finirà è difficile a dirsi, perché c'è due democristiani che lottano fra di loro, ex democristiani, Letta democristiano, sì, eternum, sì. e quell'altro invece è un democristiano moderno, diciamo, quindi è difficile a dire cosa faranno perché tra di loro. Però mi pare che Renzi dica un po' di più quello che pensa. Sì. E quindi questo non è, non, magari non va a suo favore, perché dall'altra parte c'è invece uno che quel che pensa è più difficile, ma saperlo però sta tirando avanti per rimanere lì dov'è. E sicché non è difficile a dirsi. È difficile a dirsi. No, certo, no, c'è da dire che è un bel duello, anche perché Vincino, uno si è affidato alla provvidenza e l'altro alla protezione della mamma alla Madonna. E quindi adesso non lo so chi delle due è più forte. Non lo so. Ma assolutamente Renzi, non è che è una storia che dura un giorno questa qua. Cioè, come dire, non è che dopo domani noi abbiamo inizio le cose e abbiamo il governo Renzi. Oh, il governo Renzi. Come dire, non è che Renzi poi è così fesso. Vincino, come... E Vincino è contento perché da un mese no, che dice Renzi, Renzi. No, no, ma di più, anche 3-4 mesi. Anche 3-4 mesi. Anche 6 mesi, anche un anno praticamente. Sì. No? Cioè, là l'errore l'ha fatto Napolitano che... come al solito, non è che quello che ha sempre tre presidenti di scorta nella sua vita. L'unica cosa che non aveva di scorta aveva un presidente della Repubblica. Di questo comincio a pensare che in realtà la mala pensata del fatto che Napolitano voleva la successione mi sembra che abbia molto senso. Eccolo lì, il complotto, no, il vero complotto è ma questo. No, ma esattamente, perché come lui organizza le cose che sempre pensa tre cose avanti, ma perché non ha organizzato nessun presidente della Repubblica? Perché voleva tornare lui? Ah, cioè, ecco, vabbè. Mi sembra, vabbè, comunque dire, cioè, ieri... Cioè l'errore è stato, allora, secondo te, doveva dare a Renzi subito dopo le elezioni invece che a Letta? Certo, perché era l'unico in grado, era l'unico capace. Questo è il punto, non è che siamo tutti uguali. Tu sei capace a fare una trasmissione o radiofonica o televisiva, io sono capace a fare un giornalizzato, altri non sono capace a farlo. Questo è il punto, non siamo uguali in Italia. Allora, Letta è incapace a governare, mentre Renzi probabilmente qualche chance potrebbe avere. Sentito, Del Debbio parla come un sottosegretario in pectore, Vincino, praticamente. Magari, magari. Sì, dopo domani lo intervisti direttamente come sottosegretario alla giustizia. Perché... No, alla stampa, quella là, là. No, sottosegretario ai giornali, no. All'informazione, all'editoria. No, sottosegretario alla giustizia, perché Paolo Del Debbio non si può dire, noi non lo diciamo mai a nessuno, ma Vincino è stato in carcere, quindi conosce per un mese e mezzo a Caltanissette. E quindi conosce il problema. È stata la terza giornata a dicembre, quindi ecco. Si può occupare di questo. Vabbè, dai, però fatemi un problema. Allora, Vincino l'ha fatto il pronostico, cioè Renzi, Renzi è presidente del Consiglio prima di lunedì, che poi inizia Sanremo, bisogna fare queste cose abbastanza. Infatti, no, ma no, che lo ripeto da due giorni, non è una battuta. Cioè, durante il Festival di Sanremo è sospeso tutto, e quindi entro lunedì deve diventare premio. No, ma Sanremo è come la cosa europea, bisogna arrivare a Sanremo con un governo solido. Appunto, non si può mica mettere i dubbi agli italiani. Del Debbio, ce la farà prima di Sanremo Renzi, oppure Letta si arroccherà, si resisterà? Che succederà? Se ce la farà non lo so, francamente. So che è l'unico, io condivido questo con Vincino, è l'unico che ce la può fare, nel senso che c'ha una carica ancora che gli altri non hanno, insomma, c'ha una carica nuova. Cioè, quando cambiano scenario, come nel 94, a un certo punto arriva uno che c'ha più carica di quegli altri. E ora c'è la carica, c'è poco da fare. Ce l'ha lui. Sì, però con la carica come si va avanti? Perché Avanti se metti qualche ministro giusto e se porti avanti le cose come le sta portando sulla legge elettorale. C'è poco da fare. Quindi si questo. La forza, diciamo, la forza del fatto. Però oggi Galli c'è la forza della convinzione che hai nei confronti dei cittadini, c'è la forza della convinzione di quel che porti avanti te, e poi mettere ogni tanto le palline sul tavolo e come Renzi me le mette tutti i giorni, mentre Letta su queste palline ci dà le martellatine, è un ruolo diverso. Sentite, uno mette le palline, l'altro mette il martellino. Palline, il martello, palline da ping pong, ovviamente. No, magari sono anche più grosse, ma Letta col martellino Zen ci dà i colpetti sopra. Lo Zen è l'arte della manutenzione della motocicletta, altro titolo ricordo, straordinario libro. Vincino l'avrà letto sicuramente, anche Paolo Del Debbio. Allora, intanto sentite Pannella, uno che la s'allunga, Pannella. Chi capperi sa quali sono le differenze di Enrico Letta o di Renzo o quest'altro? Renzo, loro, no, Renzi! Quali sono le concezioni, le tensioni diverse, eccetera. No, niente, hai capito, Vincino? Sono uguali. No, questo non è vero. Non è vero. No, esattamente. Renzo, come lo chiama Vincino, il tuo amico Pera? Renzo! No, gli voglio bene, però, come dire, là, fortunatamente il segretario del Partito Radicale è Rita Bernardini, una giovane seria, ecco, no, assolutamente. Ecco. Allora, tra l'altro, la notizia la dà Libero, secondo me. Renzi, di una cosa può stare tranquillo, lo scrive Libero oggi a pagina 5. Se mai andrà a Palazzo Chigi, troverà, caro Vincino, lo sciacquone a posto. Hanno appena speso 427 euro per lo spurgo servizi e bagni. E quindi lo sciacquone. Quanto vanno in bagno lì? No, vabbè, 427 euro. Sarà un idraulico non polacco. Sarà un idraulico liquido. Idraulico a Roma, a trovare Palazzo Chigi. Come direbbe Bauman, siamo al periodo dell'idraulico liquido. Gran citazione letteraria, Sigmund Bauman, qua siamo. Certo, se chiama Renzo. Renzi, allora l'altro è Lucia. Vabbè, ma oggi Vincino, abbiamo trovato un Paolo Del Debbio battutista clamoroso. Vincino, di qualcosa tu, ti sta rubando, no, le battute? No, ma guarda, stamattina mi sono anche svegliato un attimo tardi, diciamo, sono poco ieri sono stato tutto il pomeriggio alla Camera. Erano disperati i cronisti parlamentari. E perché disperati? Erano disperati perché non se l'aspettavano questa cosa qua così, sì. non sapevano, andavano uno dall'altro a cercare di suggerirsi cose, e sì. Niente, erano, i loro schemi erano saltati, questo fatto qua. Posso chiedere una cosa? Vincino, guarda che c'è Del Debbio che può farti una domanda. Ma chi era il più disperato, Vincino? Il più disperato secondo me da fuori è Caporale del Fatto. Come cronista, ma no, ma lui forse dice dei politici. No, erano disperati i cronisti parlamentari. No, i politici non esistevano là, erano ognuno le cose, erano i cronisti del PD che si sparricchiavano, allora tu diventi coso, tu non ci diventi, e l'altro, gli altri che guardavano perché stavano a guardare, mentre invece gli altri ancora, quelli delle 5 Stelle, non stanno nel transattatico, loro stanno o nel loro gruppo o in aula, sì. Non frequentano il transattatico, che invece è l'unico posto che a me diverte frequentare. La cosa più intelligente, dice uno, dice Letta, prima di uscire vuole fare fuori due caviglie. Sì, cioè come la partita di calcio è finita, hai perso. Almeno spacco la gamba al centravanti. Effettivamente potrebbe essere Del Debbio, questa è buona. No? Uno della stampa bravissimo, Mattia Feltri, uno intelligentissimo, dice questa cosa, io rimango così. Ah, sì, vuole... Non capisco il perché deve rompere due caviglie, però. Cerca di rovinare un po' l'avversario. No? Vabbè, infatti, la teoria del martellino, dai. La teoria del martellino. Che è la presidente Milan, vedrai che ti aiuta. Ecco, esatto, delle palline. È una vecchia frase latina: se non puoi essere il paradiso, semina inferno dappertutto. È una frase da disperati, però. Come sì, dire, ma appunto, è... anche perché ha ragione Iena, cioè i due galli nel pollaio, ma il pollaio si dà il caso che sia l'Italia, poi, no? Voglio dire, quindi c'è pur sempre un paese da mandare avanti, se lor signori sì, vogliono. Però tra una settimana di questa storia qua non se la ricorda più nessuno. Guarda più nessuno, no, assolutamente. Ma se anche oggi Galli della Loggia scrive sul Corriere della Sera, in tutta l'Europa normale si va a votare per diventare Presidente del Consiglio, solo in Italia è così, ma per carità, sono scelte, come ha detto sciocchezze le elezioni. Ma Napolitano le elezioni da sempre non le ha mai, come dire, non sono state mai la sua preoccupazione. Adesso che è l'unico momento in cui Ungheria 56, ma quale elezioni? Non è che bastavano i carri armati? Dopo, no, come no, è rimasto dell'idea no. che le elezioni non gliene frega niente, cioè, no, ma, no, lascia la stare. Svolta di Salerno, perché Togliatti è andato a votare per fare la svolta di Salerno? No, no, è arrivato e ha fatto la svolta di Salerno. Sono passati 60 anni, lascia perdere. Ma lui è rimasto così. Vabbè, andiamo alle informazioni sul traffico, poi rientriamo. 24 mattino. Vorrei lanciare un appello al Ministro dello Sviluppo Economico. Lavoro a Milano e non al Polo Sud, ma purtroppo la linea internet ogni volta che piove non funziona. Quindi, per poter lavorare, ho dovuto comprare una chiavetta e un PC portatile, metterlo in macchina e andare in tangenziale. E una volta scaricata la mail con la fattura da pagare, mi è sorta una domanda che non trova risposta. Caro Ministro, ma in macchina, in tangenziale, la spina della stampante, dove la devo infilare? Io sono della provincia di Caserta, esattamente a San Marcellino, un paese di merda, pieno di immondizie. E nessuno la resta. E mi mandano 500 euro di immondizie da pagare. Ma faccialo. Sì, Mila, oggi ho riscosso, ho preso la busta paga, dopo 2 anni ho il meritato aumento, eh. Arreggiti, 17 centesimi. Come si dice dalle mie parti, tirati sulle ciocce. Ma che respira, respira, conta fino a 3, Milan, sì, i puliti, i romani, le vestiti rompimer balen, de travaglie, basta, basta tasse, basta travaglie per viaiti, basta, lo leve, rompimer balen. Ciao Milan, ed ecco il nuovo governo Renzi, presidente del Consiglio Renzi, ministro della giustizia Berlusconi, ministro agli esteri Berlusconi, ministro dell'interno Berlusconi. Sì, sempre a parlare al telefono con Milan, Cribio. Chi era questo? Non lo so, era il ministro degli esteri forse che è intervenuto un attimo. Non lo so, vabbè, c'è il complotto, adesso pensano tutti Renzi, Berlusconi, come uscirne da questa vicenda, ma non lo so, vabbè. Agli esteri andiamo alla grande, con l'ONU che non sa dove è l'Italia. Ah, mamma mia, ecco. Devi fare una polemica con l'altra tua amica, la radicale Emma Bonino? Ma no, è come dire, sì, sono i fatti, sono i due disastri ormai da tanti anni del Partito Radicale. Io, come dire, io, cioè, una cosa questa qua, cioè, no, cioè vanno in missione ONU là, sì, e poi l'ONU dice no, ci sono cavoli dell'Italia e dell'India, non sappiamo manco. Vabbè, vabbè, ci succedono anche altre cose. Io alle 8:15 parlerò di questa vicenda della Fini Giovanardi, no, la droga. Ah, stupendo. Ah. Avrò Giovanardi, tra l'altro. Del Debbio, che offri che... una canna da parte mia, eh. Sì, ce l'ho. Ce l'ho qua, guarda, in tasca, già pronta. Ma guarda, ma porca miseria, ma Del Debbio, ma che devi fare con uno come Vincino? Chiamarlo? Vincino è così com'è. È così. Capisci? È un'ipostasi, Vincino, non è un uomo. Un'ipostasi? Che è un'ipostasi? È una figura retorica, questo sono sicuro. No, la figura retorica non ha consistenza. L'ipostasi ha più consistenza che un uomo. Non era una diminuzio. No, ma era un incomprendizio da parte mia. Hai parole di vita eterna. La comprendizio non è male. Vabbè, insomma, allora, questa cosa della droga, no, Del Debbio, ma le droghe leggere e pesanti, esiste questa... Ormai è tutto, si può, insomma, da ieri. Quando si può? No, ma non è che si può, dai, non è che... Che dobbiamo dire? No, è che tra l'altro non è che hanno bocciato perché il principio droghe leggere, è perché il governo il Parlamento ha fatto in maniera sbagliata, ha adottato questo provvedimento. Ragazzi, la forma è sostanza, per la forma. Infatti. È giusto, quindi se hanno sbagliato. In più, secondo me, c'è di qualcuno che si fa e che ha voluto dare uno schiaffo a Giovanardi e a Fini. Vabbè, ma Fini. Ma Fini ormai interessa meno, diciamo. Vabbè, ma la Corte Costituzionale si è pronunciata sul caso di una persona. la parte più orribile del governo Berlusconi era quella, la parte, quella, quel destro fascismo coso di proprio era una cosa insopportabile, non... Ma chi? Questa legge era il frutto della parte più orribile del governo Berlusconi, quell'unione tra democristiani di destra e fascisti di sinistra. Eccoli, abbiamo sistemato anche questi. Ma sì, dai, cioè, quella cosa contro i giovani, è una cosa insopportabile. Ma dai, cosa contro i giovani? Tutti le camere dappertutto, dai ragazzini ai vecchioni. Cioè, in America ormai metà dell'America si può fumare tranquilli, e fumiamo pure noi. Eccoli, l'invito molto pacato di Vincino alle 6:54 del Debbio, che dobbiamo fare questo? No, è una costruzione. Per fortuna ha detto che si è svegliato anche prima. No, infatti si è svegliato e non era molto, forse durante il traffico, adesso non lo so. Ma no, penso si sveglia. In questo momento comunque è difficile, effettivamente la domanda me la pone un ascoltatore via sms e la giro a Vincino, ma in questo momento drammatico, sì, il busto di Andreotti, che espressione ha il busto marmoreo di Andreotti? Devo scendere fuori, andare in giardino e andare a vedere com'è. Però, vabbè, ieri avrai visto com'è. No, è da 2 o 3 giorni che non lo guardo, però, come dire, credo un leggero sorriso, però devo dire, vedevo un leggero sorriso. Perché vede la democrazia, sente che c'è profumo di democrazia cristiana, come piaceva a lui, no? Esattamente. Questi momenti di lunghi coltelli. Assolutamente, però lui non avrebbe mai fatto come Letta, Non avrebbe fatto come questo. Vabbè, comunque io per chiudere vi voglio regalare la notizia che oggi pubblica la stampa. Un restauratore nel Novarese è entrato in una casa a restaurare, una casa abbandonata, una casa di una persona, sì, dove ha trovato in un mobile 200.000 euro e li ha consegnati all'erede della casa. All'erede della casa. Casa Savoia, che casa no, è? Non lo so, c'è qualcuno che aveva 200.000 euro in buoni postali fruttiferi, li ha trovati e li ha consegnati all'erede, ci ha chiamato l'erede, gli ha detto guarda che ha fatto quello che devono fare tutti normalmente. Le hanno lasciato nell'armadio 200.000 euro. Ho capito, ma se uno li trova che fa? Se li prende, ma io starei male, non lo so. Ho capito, non lo so, però ha cercato l'erede, che dobbiamo fare? Vabbè. Che devi fare? Cerchi mica di dare alla polizia che se li fottono loro, scusami. No, Vincino, vabbè. Mi devo salutare, grazie Vincino, grazie Paolo del Debbio, alla prossima. Vi lasciamo con l'inno del Liverpool, che è diventato anche questo citato da Letta. Ma perché ha citato l'inno del Liverpool? You never walk alone. Through the storm. Hold your hand. E alla società italiana si rivolge mutuando uno slogan calcistico, uno slogan che a me piace molto, il Liverpool, you'll never walk alone, la possibilità di dire a ognuno, a ogni italiano, non camminerai mai da solo, il tentativo di fare del nostro welfare un welfare che si occupi per l'appunto anche dei nuovi bisogni. Due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti in punto, cari ascoltatori, forza, come dico sempre, dai, dai, che bisogna produrre. E allora, cari italiani, bisogna andare avanti, questo è il momento della rassegna stampa. Noi oggi parleremo della legge Fini-Giovanardi, quella bocciata dalla Corte Costituzionale, quella che non distingueva più tra droghe leggere e pesanti, e invece la Corte Costituzionale, giudicando sul caso di ricorso di una persona, ha detto che questa distinzione va fatta. Ora c'è un allarme, c'è anche un giallo, perché secondo alcuni potrebbe essere a questo punto da rivedere tutte le sentenze definitive in carcere, con la possibilità che ci siano 10.000 persone già condannate per la vecchia Fini-Giovanardi che ora possono uscire dal carcere. Ma su questo c'è un giallo, c'è chi dice no, in realtà per le sentenze definitive non vale questa distinzione. Insomma, parliamo di questa cosa e ovviamente invece l'altro tema che trovate sviluppato sui giornali è ormai ci siamo, così pare, oggi il giorno decisivo per il cambio di governo? Chi lo sa, andiamo a vedere. In questo giovedì 13 febbraio i titoli, il Sole 24 Ore apre così: tassi bot mai così bassi, Piazza Affari sale dell'1,3%, dunque la giornata finanziaria è in prima pagina, mentre la politica domina tutti gli altri quotidiani. Il clima è quello da duello finale, come abbiamo detto alle 6.30, tra Letta e Renzi. Ne rimarrà, politicamente parlando, solo uno. Letta rilancia, ma Renzi vuole le dimissioni, così il Corriere della Sera. Per Repubblica, invece, Renzi non cede, Letta verso le dimissioni. La Stampa, Letta sfida Renzi, non lascio. Il Fatto Quotidiano mette le foto di Letta e Renzi, il titolo è Partito distrutto, PD. Letta non cede, Renzi ha chiuso, questo è il titolo del Messaggero. Il Secolo XIX, Letta sfida Renzi e il PD. Barzelletta continua, così titola invece il quotidiano Libero. Per l'Unità ora il PD rischia di farsi male. Letta l'ultima sfida, così Avvenire, mentre il giornale Alfano tradisce Letta e Letta si fa buddista. L'unico giornale che titola sulla vicenda della legge Fini-Giovanardi e con il titolo Evviva Maria è Il Manifesto, e Maria non è certamente un nome di battesimo in questo caso. Allora, come detto, questa decisione della Corte Costituzionale, come racconta anche Donatella Stasio a pagina 10 del Sole 24 Ore, una sentenza storica. È stata giustamente definita quella pronunciata dalla Corte Costituzionale che ha cancellato il cuore della legge Fini-Giovanardi, ripristinando quindi la distinzione tra droghe pesanti e leggere e pene più basse per quest'ultime. La cancellazione è un effetto indiretto di una illegittima scorciatoia con cui venne imposta quella legge, cioè un maxi emendamento approvato durante la conversione del decreto sulle Olimpiadi invernali nel 2006. Un decreto disomogeneo rispetto al contesto in cui venne inserito. Cioè, cari ascoltatori, vuol dire che non è che tanto la Corte Costituzionale ha deciso che le droghe leggere e pesanti, entrando nel merito, debbano essere non equiparate, quindi non ha preso questo tipo di decisione. La Corte Costituzionale ha sentenziato che il metodo con cui il provvedimento fu approvato, cioè una conversione di un decreto sulle Olimpiadi invernali del 2006, che quindi c'entrava poco evidentemente per la Corte Costituzionale con la materia in oggetto, il metodo utilizzato è stato un metodo disomogeneo e quindi la legge è stata cassata in questa parte. Come scrive Michele Ainis in prima pagina del Corriere, Michele Ainis è un costituzionalista, la consulta insegue il legislatore inetto, scrive Ainis. La legge elettorale l'ha scritta il mese scorso la consulta. La riforma della Fini-Giovanardi sulle droghe ci ha pensato ieri la consulta. L'amnistia evocata da Napolitano nel suo unico messaggio al Parlamento, decisa sempre ieri dalla consulta, le nostre carceri stracolme perderanno 10.000 inquilini. Messa così suona come un'invasione di campo, un rovesciamento dei ruoli, delle competenze, ma il Tribunale Costituzionale non ha colpe se la politica ha abbandonato il campo, se sforna molti veti e nessun voto, nessun intervento normativo per correggere le troppe storture che abbiamo ancora in circolo. Insomma, scrive Ainis, non è colpa della Corte Costituzionale far rispettare le leggi, semmai è colpa della politica che non sa approvarla nella maniera corretta. In realtà sulla questione delle carceri svuotate tutti titolano: ora ci saranno 10.000 condannati in via definitiva che potranno fare appello quando verrà pubblicata la motivazione della sentenza e potranno essere liberati. Ma attenzione, c'è un giallo su questo. Giovanni Maria Flick, che è l'ex presidente della Corte Costituzionale e che ieri era avvocato insieme all'avvocata Michela Porcile, che era davanti alla Corte Costituzionale e che ha vinto questa causa, e tra l'altro l'avvocato Michela Porcile sarà nostra ospite con Giovanardi alle 8.15. Ebbene, Giovanni Maria Flick, intervistato dal Manifesto, in realtà disegna da un'altra versione, dire: attenzione, non è vero che usciranno dal carcere 10.000 persone. Alla domanda di Eleonora Martini, chi è stato condannato con la Fini Giovanardi può chiedere il ricalcolo della pena? Sentite Flick, no. Se la sentenza è definitiva, no. Secondo un principio generale del codice, nel caso che una nuova disciplina legislativa subentri a cancellare un reato, allora l'esecuzione della condanna cessa anche se la sentenza è definitiva. Ma se la nuova norma, che in questo caso è dunque la vecchia legge Iervolino ripristinata ieri, si limita a modificare il quadro ma senza eliminare il reato, allora lo sbarramento è dato dal passaggio in giudicato. Mi domando se tutto questo non dovrà portare a pensare a provvedimenti di clemenza specifici su questo punto. Quindi, attenzione, c'è il rischio, e quello che leggerete sui giornali, e cioè come il titolo del Corriere della Sera, pene da ricalcolare per 10.000 detenuti, oppure Repubblica, oppure gli allarmi, ora svuoteranno le carceri, 10.000 fuori. Giovanni Maria Flick, che ha sostenuto e ha vinto questa causa insieme a Michela Porcile davanti alla Corte Costituzionale, dice no, non c'è se la pena è definitiva, quindi se il procedimento è in corso ovviamente sì, ma se la pena è definitiva non c'è alcun ricalcolo della pena. E questo lo chiederemo anche all'avvocato Porcile, che sarà nostro ospite. Se è così, insomma, è un po' una smentita rispetto agli allarmi lanciati sui giornali. Oggi escono 10.000 detenuti. Parla anche Fini, perché tutti ricordano la legge Fini-Giovanardi, tutti chiamano Giovanardi, anche noi avremo Giovanardi, ma Gianfranco Fini è l'altro padre di questa legge. Intervistato qualche poche parole per la verità da Repubblica, da Caterina Pasolini, a pagina 13, prima dice sono una persona seria e vorrei commentare solo dopo aver attentamente letto le motivazioni, non insista. Però la giornalista di Repubblica insiste, qualche domanda gliela fa, e dice in questi anni se ho cambiato idea? Assolutamente no, sull'equiparazione delle droghe leggere e pesanti sono rimasto della stessa identica opinione. Ma dunque marijuana o cocaina per lei pari sono? No, la questione è ben diversa, il principio è quello del danno alla salute, le sostanze psicotrope è provato fanno male. Senza dimenticarci che la Costituzione prevede che venga tutelata la salute dei cittadini. E poi ricorda, come aveva già fatto una volta, provai solo una volta a 18 anni una canna in compagnia, mi ricordo solo nausea, mal di testa, tremendi, non ho mai più riprovato. Vabbè. Approfondiremo alle 8:15. Due notizie prima di risentirci dopo la pubblicità. La prima la trovate su L'Unità e sul Fatto Quotidiano. La Corte dei Conti mette sotto attenzione i conti, per l'appunto, della RAI in vista di Sanremo. Arriva Sanremo, quest'anno le polemiche annesse sui cachet, le questioni sono un po' fino a questo momento tenute sotto traccia, d'altronde ci sono problemi politici più importanti. Comunque la Corte dei Conti alla RAI, spreconi, è ora di tagliare, pagina 10 del Fatto Quotidiano, Valeria Pacelli, ma la trovate anche con Bianca Di Giovanni sull'Unità, a pagina 12, costi troppo alti per Sanremo e le fiction della RAI. E cosa ha contestato la Corte dei Conti? Il festival sempre in rosso, spese che non sono recuperate dalla pubblicità, perdite che ammontano a 4 milioni di euro. Per quel che riguarda la fiction, invece, nel 2011 i costi per le produzioni ammontano a 199 milioni di euro, nel 2012 a 169. Poi gli incarichi d'oro, le consulenze che sono ignote, non vengono rese note, i magistrati contabili chiedono un contenimento delle spese in rassegna, nel 2011 la RAI ha stipulato 254 contratti, una cifra di 2,7 milioni di euro, nel 2012 erano 2,1 milioni di euro, 600 mila rispetto all'anno precedente, ma sono sempre troppi per la Corte dei Conti e poi sono poco trasparenti e poi anche gli stipendi dei dirigenti della RAI sono troppo alti, questo secondo la Corte dei Conti, trovate, ripeto, su Il Fatto e L'Unità queste accuse. Noi dopo la pubblicità riprenderemo dalla politica, la politica che vive il momento del duello finale, ormai così lo dipingono i giornali, ne resterà in piedi uno solo, politicamente parlando, Letta o Renzi, e chiunque sarà a Palazzo Chigi la settimana prossima potrà andare al cesso tranquillo. No, non è una battuta, pagina 5 di Libero, Enrico intanto gli spurga i bagni a Palazzo Chigi. Libero scrive che chiunque sarà a Palazzo Chigi sarà sereno perché hanno appena speso 653 euro da parte dati alla società Artigiana Romana per manutenzione bagni e 427 euro per servizio spurgo bagni. Dunque, chiunque sarà lì come inquilino a Palazzo Chigi troverà uno sciacquone bello funzionante. Ma chi sarà lì? Questo lo scopriremo solo vivendo, forse oggi. Intanto, dopo la pubblicità, qualcosa di più lo scopriremo leggendo i giornali. Alino Milan, il Justin Bieber dell'informazione. Justin Bieber, dai, ma che siamo matti? Come minimo c'ho 70 anni più di Justin Bieber, come minimo, grazie, siete tenerissimi a mandare questi stacchetti che potete lasciarci nella segreteria telefonica, non dico il numero, sennò mi ne sbaglio 7 su 9. Allora, come detto, la situazione politica la dovete immaginare come proprio la sfida all'OK Corral. Questo è perché di fatto Renzi-Letta. Renzi a questo punto ha detto Letta dimettiti e Letta ieri ha fatto una conferenza stampa dicendo questo è il mio impegno per l'Italia, per rilanciarmi. Chi vuole venire qui al mio posto deve dirlo pubblicamente. Capite che oggi alle 15 è riunita la direzione del PD e tutti sono sicuri sui giornali a dire volano gli stracci. La situazione ovviamente è in continua mutazione, in continuo evolversi, però i giornali raccontano che molto probabilmente entro oggi Enrico Letta si dimetterà. Secondo il Corriere della Sera, il timing di Renzi è essere Presidente del Consiglio entro lunedì, martedì prossimo, avere già la fiducia. Ricordate, c'è sempre Sanremo settimana prossima. Bisogna fare tutto prima di Sanremo. Comunque, Renzi verso lo showdown, così titola pagina 4 del Sole 24 Ore con Emilia Patta, leader del PD lancerà la nuova fase in direzione il partito deciso per il cambio. Raccontano chi ha visto Renzi ieri e i retroscena oggi della politica sono molto succosi, molto interessanti. Chi l'ha visto ieri dopo la conferenza di Letta nella quale ha detto io sono sereno, sono zen, Renzi a quel punto pare definito dai suoi come infuriato, inviperito. Ma tutto parte al mattino con il faccia a faccia, pagina 3 del Corriere della Sera. Marco Galluzzo e Monica Guerzoni lo raccontano così: il duro scontro a Palazzo Chigi. Matteo, io non cerco seggiole, così ha detto Letta a Renzi. Martedì notte, mentre usciva da una trattoria molisana al testaccio, una coppia si avvicina ad Enrico Letta e la moglie gli dice: vai Enrico, ce la fai? E il premier: magari. Insomma, ieri il faccia a faccia ha una premessa. Letta convoca Franceschini, che considera capo della macchinazione di palazzo e poteri. Di lui Letta si è fidato fino all'ultimo. Io ti ho creduto, Dario, quando giuravi che quelle riunioni coi dirigenti renziani e leader dei partiti le facevi per il mio governo. Invece no, scopro che trattavi per il governo Renzi, mi hai pugnalato alle spalle. Letta ce l'ha così con Franceschini, secondo il Corriere della Sera. E se il miracolo accade, il mio governo riparte, una sola cosa è certa: Dario Franceschini non sarà più ministro. Questa è la premessa, poi l'incontro tra Letta e Renzi. E a questo punto racconta il Corriere, Renzi gli dice il tuo governo è finito, fatti da parte, e Letta risponde ma no, ma sì, ti daremo la Farnesina, l'Europa. Tu scherzi Matteo, io non sono come te, non cerco seggiole, non accetto compromessi e faccio un passo avanti, non indietro. E a quel punto, dicendo io vado avanti da uomo del PD, si presenta alla stampa e presenta come nulla fosse il programma Impegno Italia e dice chi vuole star qui deve dirlo pubblicamente. Anche per il retroscena di Goffredo De Marchis su Repubblica è andata con un faccia a faccia tesissimo. Lascia, entrerai nel nuovo governo, ma io non accetto trattative sottobanco. Poi quando Letta presenta la conferenza stampa, a quel punto Renzi sbotta, racconta Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano a pagina 3 che sbotta così furibondo: mi ha preso per il culo, non ne sapevo nulla. ma tanto domani preparerò un discorso di fuoco. Secondo il Corriere della Sera è la conferma di un Renzi infuriato dopo che vede Letta andare avanti per la sua strada. Nel retroscena di Maria Teresa Melia, pagina 5, Matteo Renzi, dopo aver detto la storia si è esaurita, non ci sono più le condizioni per andare avanti, questo governo rischia di essere una zavorra per l'Italia e non sarò duro domani in direzione, cioè oggi, perché tanto Letta si dimette prima. Poi invece c'è stato appunto questo cambiamento con Letta, vado avanti, sono zen, eccetera. E a quel punto Renzi ai suoi, capito cos'è successo, avevamo siglato un patto e lui ha fatto l'opposto, ha scelto il muro contro muro, come ci si può comportare così slealmente? Ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra, si deve dimettere, sapete che c'è, vado in direzione e dico che andiamo a votare. Poi, racconta il Corriere, lo calmano soprattutto Graziano Del Rio, lo calma anche Fassino e a quel punto si sceglie per la linea ufficiale soft. Sono retroscena, come al solito, prendeteli per quello che sono. Dichiarazioni ufficiali di Matteo Renzi non ce ne sono, dichiarazioni invece ufficiali di Letta ci sono. Certo, impazza ancora il Toto Ministri, la stampa e tutti i giornali raccontano che Renzi avrebbe già scelto come ministro dell'economia, sale molto Lucrezia Reichlin, economista, consigliere di Unicredit, editorialista del Corriere della Sera. Impazzano anche gli altri nomi, Del Rio potrebbe essere sottosegretario, Maria Elena Boschi alle riforme, Vietti alla giustizia dal CSM al posto di Anna Maria Cancellieri, il timing per il Corriere appunto è dal lunedì, entro lunedì martedì avere già la fiducia del Parlamento. Napolitano dice le elezioni sono solo sciocchezze, sta di fatto che vi propongo due commenti, il primo di Ernesto Galli della Loggia, prima pagina del Corriere, giochi pericolosi. Scrive Galli della Loggia, nell'Europa normale si diventa capi del governo dopo aver vinto le elezioni, in Italia no. Da noi basta vincere, sia pure alla grande, le primarie del PD. Infatti, salvo colpi di scena dell'ultima ora, sempre possibili, Matteo Renzi sarà chiamato tra pochissimo alla carica di Presidente del Consiglio, non solo senza aver mai partecipato a competizioni politiche nazionali, tantomeno aver in essa vinto la testa di un partito, ma senza neppure sedere in una delle due camere elettive, dal momento che, come si sa, egli non è né deputato né senatore. E dice e avvisa Galli della Loggia: attenzione Renzi, non potrà più fare appello ad alcuna volontà popolare, ad alcun patto politico con gli elettori, sarà solo alle prese con quegli intrighi, giravolte, vendette abituali nel campo dei democratici, che oggi amareggiano il triste commiato di Enrico Letta e che domani, come dubitarne, cominceranno subito implacabilmente a lavorare ai fianchi anche lui. E questo, scrive Galli della Loggia, è un po' il problema, aggiungo io, che c'è da anni in Italia, c'è una sinistra che effettivamente è nota e rinomata per fare la guerra anche ai propri leader, una guerra logorante, tanto che Iena, pagina 3 sulla stampa, oggi scrive: sono due galli nel pollaio, peccato che il pollaio siamo noi. E ancora più duro è il buongiorno di Massimo Gramellini, oggi davvero graffiante dal titolo PD, ma nel senso di poveri diavoli. Scrive Gramellini: oggi la direzione del PD dovrà decidere se sfiduciare il suo premier o il suo segretario. Non è che l'ultima di una serie di scelte impossibili, tendenzialmente suicide, a cui i democratici vengono sottoposti fin dalla più tenera età. Quando un cretino chiede a un bambino se vuole più bene alla mamma o al papà e lui, anziché fargli la pipì addosso, lo guarda con gli occhi di Franceschini, ecco, siamo in presenza di un bambino democratico. Da lì in avanti la sua vita sarà un tormento continuo alle elezioni locali, andare a votare il candidato di un altro partito polemicamente alleato e potenzialmente infido, oppure restare a casa per decenza, ma con ricatto morale che così si fa il gioco di Berlusconi. Alle primarie, puntare su Bersani per accorgersi solo dopo che il cavallo vincente era Renzi. Allora puntare su Renzi per andare finalmente al governo, sottovalutando che nel frattempo al governo c'è già arrivato Letta. Al Quirinale, farsi piacere Marini perché gradito ai Berluschi o Rodotà perché gradito ai Grillini, finendo con l'impallinare Prodi e riprendersi Napolitano. Un bivio esistenziale dopo l'altro, i seguaci del PD sono ormai prossimi all'esaurimento nervoso. Ne conosco uno che quando a tavola gli chiedono se preferisca la pasta in bianco al sugo, solleva la forchetta in segno di resa e si mette a piangere. Alla vigilia dell'ennesima decisione suprema vorrei inviare ai dirigenti democratici un messaggio di serenità. Non vale la pena che si preoccupino, tanto qualunque scelta faranno risulterà poi essere quella sbagliata. Così Massimo Gramellini oggi sulla Stampa. Caro Giuseppe Chiellino, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Alessandro. Che bello essere nei panni di Renzi o Letta oggi. Che ti sveglia la mattina e non sai alla sera che succederà di te. Vabbè, certo. Che succede invece oggi sul Sole? Ma guarda, allora, riprendendo l'argomento di cui hai appena parlato, io segnalerei l'editoriale, l'analisi di Isabella Bufacchi che spiega come mai i mercati stanno ignorando questo pollaio, questa lotta tra galli nel pollaio, come scrive Gramellini. E, infatti la borsa ieri è stata la migliore in Europa, la borsa di Milano, e i bot hanno registrato il minimo storico nell'asta di ieri. Una lunga analisi di Isabella spiega come mai in questa fase i mercati stanno ignorando questa situazione politica ingarbugliata e anche abbastanza molto molto tesa, insomma, che porterà quasi certamente ormai a un cambio di governo. E, insomma, c'è molta liquidità sui mercati, i tassi italiani restano comunque relativamente alti rispetto agli altri paesi e quindi insomma, certo, sulle aste a breve come quella di ieri l'Italia va bene. Mi ha anche molto colpito l'analisi di Adriana Ceretelli sulla spesa pubblica, no? Spesa pubblica che nell'ultimo quinquennio in Grecia, Irlanda e Spagna è diminuita, mentre cosa ha fatto l'Italia? Indovinate un po', un quiz da zero, euro, aumentata ovviamente. Sì, sì, l'inchiesta di Adriana fa parte la terza puntata di un'inchiesta più ampia sull'Europa e in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea che inizierà a luglio, come sappiamo. Ti volevo segnalare anche, perché il giovedì è il giorno di Casa 24, andando su argomenti che sono più concreti e interessano molto più da vicino gli ascoltatori, un approfondimento, un'elaborazione del Politecnico di Milano per Casa 24 sulla riqualificazione energetica degli edifici, delle abitazioni e ci sono diversi casi in una tabella che simulano quanto si può risparmiare con gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dagli incentivi che ancora ci sono. Questo è molto più concreto, molto più interessante per i nostri ascoltatori e insomma. Beh, certo, è assolutamente da segnalare. Caro Giuseppe, io ti ringrazio, so che forse domani non ci sentiremo, ma insomma, settimana corta. Va bene, intanto ti ringrazio per essere stato con noi questa settimana. Alle 7:45 minuti andiamo alle informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il funambolo dell'informazione. Va bene, il funambolo ci sta. Allora, alle 7:48 minuti, cari ascoltatori, qualcosa si muove invece per quel che riguarda in questo tourbillon della politica che succederà in queste 48 ore, non si sa, però intanto c'è stato un primo sì al Senato sulla legge del finanziamento pubblico ai partiti, quella voluta dal governo attuale, il governo Letta, che cambierà dal 2017 il regime di finanziamento ai partiti. Meno soldi ai partiti, primo sì dal Senato, pagina 11 di Repubblica, e ora ci vorrà l'approvazione alla Camera. Vabbè, in questo momento è un po' complicato, però il primo sì c'è stato. Le notizie di cronaca che mi hanno colpito: intanto la Stampa continua a concentrarsi sul cosiddetto metodo stamina, ricordate, di Vannoni, parlando e raccontando oggi che cosa il viaggio di molti dei malati italiani che erano con stamina, che ora partono per Israele. Perché? Maurizio Molinari lo racconta a pagina 10, il 20° piano del grattacielo Top Ichilov. I pazienti italiani qui si susseguono a Tel Aviv con una certa frequenza, vanno dal professor Shimon Slavin, vanno all'International Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy. Aperto i battenti 5 anni fa, è un internista Slavin, internista di trapianti del midollo osseo, ex capo del centro di ricerca sulle cellule staminali all'ospedale di Gerusalemme, e qualche anno fa ha deciso di sviluppare quella che definisce l'unica versione esistente di medicina personalizzata, una scommessa che a 72 anni l'ha portato ad essere il punto d'arrivo per pazienti israeliani, arabi, europei che vedono nelle terapie con cellule staminali una strada per tentare di evitare la morte, come riassume sbrigativamente lo stesso Slavin. C'è quindi questo fenomeno di persone che vanno in Israele, lo racconta La Stampa. C'è anche l'intervista al professor Paolo Bianco, ordinario di anatomia patologica alla Sapienza di Roma, che dice, intervistato da Paolo Russo: le terapie cellulari all'estero, dovete fare attenzione alle truffe criminali e dilagano soprattutto nei paesi in cui la politica è debole, così sulla Stampa. Mentre si ritorna a accendere un faro sulla vicenda di Michael Schumacher, ricordate, caduto sugli sci e da quel giorno sotto Natale all'ospedale di Grenoble, secondo Libero, che dedica una pagina a questo, con Leonardo Iannacci, la paura più grande non risponde più agli stimoli. Secondo la Bild e secondo i giornali tedeschi ha contratto anche una forma di infezione polmonare di notevole entità, forse è stato interrotto il risveglio. Per carità, parlano di speculazioni i medici, visto che mai è trapelato nulla di ufficiale dai bollettini, ma è chiaro, i giornalisti fanno il loro lavoro, cercano di ottenere qualche notizia, peraltro viene smentita, sta di fatto che la situazione ovviamente rimane molto molto grave per l'ex campione del mondo, pluricampione del mondo di Formula 1. La notizia di cronaca invece che mi ha colpito sulla Stampa, guardate questa, Chiara Fabrizi, pagina 16, da Novara: trova 200.000 euro nel mobile e li riconsegna all'ultimo erede. Erano nascosti nel sottofondo di un'angoliera di poco valore, un mucchietto di fogli inumiditi che in realtà sono rivelati buoni postali fruttiferi dagli importi e scadenza variabile, trovati da Gennarino Russo, che è stato chiamato lì a Divignano, paesino nel Novarese, a restaurare una casa. Ha trovato 57 milioni di lire che oggi, calcolando gli interessi, equivalgono a circa 200.000 euro, i risparmi di una vita di un'anziana che viveva lì, annotava su una distinta ogni versamento, e cosa ha fatto? Ha cercato l'ultimo erede e li ha consegnati, ha detto sono suoi, li ho trovati in un incasso di una angoliera che stava per distruggere. È incredibile, viene già definito un eroe, ovviamente, come in questi casi, insomma, non se li ha tenuti, li ha dati, non li ha consegnati alla polizia, eccetera. Li ha consegnati al legittimo proprietario, cioè l'erede di quella casa. Va bene, siamo al momento conclusivo, siamo al momento della carta costa, oggi straordinario, come mi ha segnalato già un ascoltatore, me l'ha segnalato anche via sms, ma certo, ma come non poteva vincere oggi il Secolo XIX in prima pagina? Si sono messi in due, quindi a quattro mani, a scrivere quest'articolo, Matteo Monforte ed Elena Nieddu. Mai dire San Valentino, lui, lei e le gaffe che accendono la festa. Al Secolo XIX ha trovato le 10 frasi da non dire mai per lui e per lei alla festa di San Valentino. Ne volete qualcuna? Lui: mi ricordi una tipa. Ma sei deficiente se a San Valentino dici alla tua fidanzata mi ricordi una tipa. Sei deficiente comunque se lo dici, ma a San Valentino. Oppure: brava, hai ordinato la porchetta, mi hai stupito. Ma che vuol dire? Ah, certo, perché lei pensa, ecco, sono ingrassata, dovrei mangiare di meno, sta pensando. Oppure le frasi da non dire per lei: dopo cena andiamo a vedere il film di Fabio Volo. Ma cosa c'entra? Cioè, queste sono le frasi che secondo il Secolo XIX rovinano la festa di San Valentino. E io sbatto i pugni su La carta costa! E al Secolo ci han fatto l'articolo con richiami in prima pagina e un'intera pagina su questo. Buon San Valentino a tutti. Domani, giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, il Sole 24 Ore oggi parla di sentenza storica, quel pronunciamento di ieri della Corte Costituzionale riguardante la legge Fini-Giovanardi, la legge sulle droghe, e a suo modo è storica perché dopo 8 anni, con un pronunciamento, appunto, la Corte Costituzionale di fatto ha stabilito che il cuore di quella legge, una parte importante di quella legge, è incostituzionale, per l'appunto. Allora, intanto va fatta una precisazione, va detto, come lo raccontano oggi bene i giornali, la legge, intanto bisogna aspettare le motivazioni della Corte Costituzionale, comunque è stata bocciata non tanto perché si è entrati nel merito della questione droghe leggere, droghe pesanti, ma per il metodo con cui fu approvata questa legge. Cioè, c'era un decreto di conversione sulla questione delle Olimpiadi invernali del 2006 e fu messo dentro anche, appunto, questa legge, e quindi questo percorso è stato definito disomogeneo dalla Corte. Dunque, il dato di fatto però sostanziale, poi vedremo le motivazioni della Corte, è che si è ripristinata la precedente legge, è quella che distingueva tra droghe leggere e droghe pesanti, mentre un punto importante della Fini-Giovanardi è che la distinzione tra droghe pesanti e leggere non c'era, e quindi viene ripristinata e si prevedono dunque pene più leggere per lo spaccio di quelle leggere. C'è poi anche un giallo che vorremmo cercare di capire in questa trasmissione, perché oggi tutti i giornali titolano: attenzione, con questo pronunciamento bisognerà fare il ricalcolo della pena di tutte le persone che sono in carcere in questo momento in base alla Fini-Giovanardi, perché se viene ripristinata una divisione, una differenza tra droghe leggere e pesanti, e quindi alcune persone sono state condannate in base a una legge che ora è giudicata incostituzionale, bisogna ricalcolare la pena, e dunque titolano i giornali: 10.000 persone potrebbero uscire dal carcere prima. Dico un giallo perché c'è chi pensa invece che non sia così. Ne vogliamo discutere con intanto l'avvocato che ha fatto ricorso ieri alla Consulta per questo caso, Michela Porcile. Avvocato, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Saluto anche il senatore oggi, Carlo Giovanardi, e ben ritrovato, senatore del Nuovo Centrodestra. Eccoci qua, Giovanardi. Buongiorno. Ci sente? Sì, certo. Sì, eccoci qua. Allora, intanto, avvocato Porcile, ci faccia capire, voi avete fatto ricorso, lei e anche l'ex presidente della Consulta Flick che l'ha affiancata, per il caso, credo, di un uomo che è trovato in possesso di 4 kg di hashish, è così? Esattamente, è corretto, per aver trasportato 3 kg e 860 grammi di hashish. Ed è stato condannato in base alla Fini-Giovanardi. A una pena detentiva di 4 anni di reclusione. 4 anni. Allora, intanto la prima cosa che ho detto è che non si è deciso nel merito ma nel metodo, cioè la Corte Costituzionale ha contestato questo, il modo in cui è stata approvata questa legge, è corretto? Assolutamente, condivido la sua precisazione, l'avrei fatta io se non l'avesse fatta lei, che l'ha fatta sicuramente meglio di me. Il punto non si è pronunciata distinzione droghe pesanti, droghe leggere, questo non è che l'effetto, non è che la conseguenza, ma il punto vero sono i decreti legge, ovvero la possibilità di inserire con una legge di conversione, quale è stata appunto la Fini-Giovanardi, norme che siano estranee rispetto all'oggetto, alle finalità e alla ratio di quello che era il decreto legge originale, che di per sé abbiamo visto essere già contenere già norme piuttosto disomogenee. Certo. Quindi assolutamente. Quindi il fatto che adesso si possa dire viene ripristinata una differenza tra droghe leggere e pesanti è solo la conseguenza del fatto che è stata giudicata incostituzionale, ma per altri motivi la legge in vigore. Assolutamente. Avremmo potuto parlare di tutt'altra materia. Essendo stata dichiarata incostituzionale quella legge di conversione, chiaramente rivive la vecchia normativa Iervolino-Vassalli, e quindi parliamo di stupefacenti. stupefacenti, ma il principio di cui si è occupata la Corte è un principio che sta ancora a monte, se vogliamo. Ripeto, poteva riguardare materie di tutt'altra natura. Allora, ci spieghi subito anche questo giallo sulla questione degli effetti per le persone che stanno in carcere, perché oggi Flick appunto fa un'intervista al Manifesto e dice: a mio parere non c'è alcun ricalcolo della pena per chi è stato già condannato con sentenza definitiva ed è in carcere in base alla Fini Giovanardi, e quindi queste allarmi, 10.000 persone potrebbero uscire, non vale. Il suo parere lei condivide? Io non, guardi, su questo punto è un giallo che devo ancora risolvere, che sto ancora cercando di risolvere unitamente ad altri colleghi, perché il problema era il raccordo fra il 673, quindi una revoca di una sentenza per abolizione del reato, con l'articolo 2 che riguarda la successione delle leggi penali nel tempo. Quindi non è, è un giallo che deve essere ancora, secondo me, risolto. Temo, ma non ne sono certa, perché leggevo alcune sentenze, una sentenza della Cassazione in particolare che è intervenuta toccando il giudicato e facendo sì che il giudice dell'esecuzione, con un incidente di esecuzione, potesse rideterminare la pena, ma in quel caso era più semplice, perché parlavamo di un'aggravante che è stata ritenuta incostituzionale. Qui parliamo di pene sostanzialmente che sono state ritenute quindi eccessive, che vengono ad essere modificate, per cui non è, mi riservo, ecco, di valutare meglio la questione. Certo, che, si, che siano passati 8 anni, così poi mettiamo un po' di carne al fuoco e Giovanardi potrà rispondere a tutto, effettivamente fa abbastanza specie. Cioè, è chiaro che la Corte Costituzionale si è pronunciata ora perché è arrivato un caso concreto su cui pronunciarsi, però le sembra normale che dopo 8 anni si scopre che una legge è stata adottata in un modo non corretto? No, non è normale, e io ho avuto più fortuna di moltissimi altri miei colleghi che in questi 8 anni hanno cercato di far sentire la loro voce, comunque di sollevare questa eccezione. Ho avuto la fortuna di trovarmi, diciamo, di sollevarla al momento giusto, soprattutto di fronte alla persona giusta, perché il giudice Amedeo Franco della Suprema Corte di Cassazione della Terza Sezione Penale ha avuto voglia evidentemente di ascoltare, ha condiviso questa questione e ha fatto un'ordinanza. Insomma, lei dice: io ho avuto fortuna, altri non l'hanno avuto in passato. Certo, rimane il cittadino, insomma, un po' si interroga di fronte a questa stranezza. Sì, quello che voglio dire è che mi dispiace, nel senso che tanti comunque, infatti questo risultato mi piace poterlo condividere con tutti i colleghi che prima di me, anche contemporaneamente a me, non sono stata sicuramente quella che ha scoperto, diciamo, nulla di nuovo. Ripeto, prima diciamo, di lei ha avuto la fortuna di essere ascoltata dalla Corte Costituzionale. Ecco. Ma di trovare un giudice, allora, che abbia condiviso. No, ma interessante. Allora, iniziamo, senatore Giovanardi. Qua ci sono tanti elementi di cui discutere. Il primo è questo: la forma è sostanza. Cioè, oggi Michele Ainis sul Corriere della Sera dice: ma insomma, ma se i politici non sanno scrivere o approvare le leggi nel modo corretto, bisogna prendersela con chi, in questo caso la Corte Costituzionale, glielo fa notare? Ma infatti non è così, perché la decisione della Corte è politica, ha ragione l'avvocato, non è giuridica, nel senso che la Corte non ha affatto detto che La legge originaria, il decreto legge, era illegittimo, anzi ha confermato che era legittimo, nel senso che il decreto originario fatto da me fin dall'inizio aveva norme sulla tossicodipendenza, perché dopo la conferenza di Palermo avevamo dovuto con urgenza introdurre norme che toglievano la recidiva per i tossicodipendenti, se no con 3 furtarelli uno stava in galera tutta la vita. Nel titolo del decreto legge era norme sulle Olimpiadi e sulle tossicodipendenze, nel testo c'era una norma che riguardava la tossicodipendenza, sì. Nella legge di conversione sono state introdotte altre norme, la Corte ieri ha ribadito che alcune norme che sono state introdotte con la legge di conversione sono legittime ed è confermate, poi però chirurgicamente con un atto politico ha tolto solo i 2 articoli che secondo la Corte, cioè quelli delle tabelle delle droghe, sì, leggero, sì, pesante, non gli piacevano. Eh beh, ma cioè, questo è un suo giudizio, cioè che no, sia una scusi, scelta un politica. No, è politica perché ha confermato la legittimità del decreto, ha confermato la legittimità degli articoli di conversione, ha confermato che la materia era quella della tossicodipendenza. Poi ha opinato che di tutte le norme che abbiamo messo dentro in termini di tossicodipendenza, e che ricordo a chi ci ascolta, sono state confermate da 3 parlamenti successivi e governi di centrodestra, sì, di centrosinistra, sì, e tecnici, quando mai nessuno ha portato in aula, compreso il governo Prodi e i ministri di centrosinistra, delle modifiche. E ha fatto questa operazione giuridica punto interrogativo. Però, no, politica, mi scusi, lei dice politica, ma è normale, ma questo vale per tutti i decreti, lo vediamo anche il mille proroghe, il salva Roma di attualmente, così dice anche Flick nell'intervista oggi al Manifesto. È normale che si deve legiferare sulle Olimpiadi invernali e passa un decreto sulla droga? Ma scusi, è il rovescio. Quando abbiamo fatto il titolo potevamo scrivere norme sulle tossicodipendenze e decreto di Torino, perché va bene la forma essere regulei, essere il paese del cavillo, ma secondo lei bastava fare due decreti legge la stessa mattina, mettere due titoli diversi e la cosa diventava legittima. Invece fare un solo decreto d'urgenza e nel titolo mettere due argomenti diventa illegittima, e quindi c'è uno sconvolgimento, proprio oggi stiamo dicendo che non si sa che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane in Italia, per chi è già stato condannato. Ritorna il concetto di quantità, per cui da oggi chi c'ha un grammo può essere messo in galera, chi c'ha un chilo può essere lasciato libero a discrezione del magistrato, perché tornano le norme confuse di una volta, e questo enorme risultato, compreso questo messaggio devastante ai giovani, guardate che la droga leggera fa meno male della droga pesante. Questo è un dibattito vecchio. Sono come tutte conseguenze di un cavillo giuridico, di una corte davanti alla quale si è presentato il presidente della corte precedente, l'avvocato Flick, che come presidente emerito della Corte Costituzionale si è presentato a fare l'avvocato davanti ai suoi colleghi, cosa che, se permette, è perlomeno poco elegante, mi sembra, no? E sulla base di queste considerazioni, correttamente l'avvocato ha detto che non entrano nel merito, per l'amor di Dio, si immagini se i 15 della Corte si preoccupano delle conseguenze della loro decisione. Però apre dei problemi giganteschi nel nostro paese. Ho capito, ma allora mettiamo per un attimo da parte che lei dice è una decisione politica, mettiamo da parte che poniamo che non sia così, se non, perché può essere anche non così, no? Visto che è una sua opinione. No, non è mia, scusi, l'avvocato ha detto che per 8 anni non ha trovato un magistrato, che per 8 anni, i magistrati per 8 anni non hanno trovato magistrati. E lei è stata più fortunata. Allora chiediamo all'avvocato Porcile, è stata una decisione politica, dice Giovanardi, anche che si presenti l'ex presidente della Corte Costituzionale davanti ai giudici della Corte Costituzionale, è una cosa quantomeno poco elegante, insomma, facendo capire che c'è un po' anche magari un po' di pressione, no? Visto che si presenta l'ex presidente di quell'organo. Avvocato. Allora, andando con ordine, non ritengo, a mio modesto avviso, che sia stata una decisione politica, assolutamente, non è una sentenza politica, a mio avviso. Per quanto riguarda il fatto che Flick, l'avvocato, che io considero, è un professore, ex presidente della Corte certamente, ma io considero comunque un collega, il fatto che lui si sia presentato non ritengo sia una cosa poco elegante, perché comunque sono trascorsi 5 anni da quando lui era presidente, abbiamo anche discusso circa o meno l'opportunità, e io ho avuto il sommo piacere, oltre che l'onore, di averlo al mio fianco. Quindi è una decisione non che ha fatto preso. Però effettivamente, cioè, lui, Giovanardi dice politica proprio per il fatto che, come dice lei, per 8 anni nessuno ha ascoltato questo tipo di stanze, e poi di colpo lei dice sono stata più fortunata. Posso dire, l'hanno ascoltata quando l'avvocato Flick non c'era ancora, quindi da questo punto di vista io non ho nessuna veste politica, quindi voglio dire, non, da questo punto di vista il fatto che abbiano ascoltato me non ha alcuna connotazione politica. Questo sì. Giovanardi, lei è arrabbiato perché hanno cassato proprio quelle sulla parificazione droghe leggere pesanti, è qui che le fa nascere il sospetto che ci sia stato un intervento chirurgico, come l'ha detto lei, e quindi politico. Ma quindi si immagina che 15 giudici abbiano, non so, voluto colpire lei, abbiano voluto colpire. Assolutamente, io sono sereno da questo punto di vista, mi dispiace per le comunità di recupero, mi dispiace per le famiglie, mi dispiace per gli educatori, mi dispiace per i tossicologi e tutti quelli che anche recentemente le 15 più grandi società italiane ci hanno segnalato con un documento scritto che oggi la cannabis, sintetico, naturale che sia, ha effetti devastanti esattamente come le altre droghe. Poi abbiamo il flagello di quella sintetica, adesso non sappiamo più in che tabella mettere. Questo mi dispiace davvero, e cioè che quello che è stato la base scientifica delle decisioni che abbiamo preso è stata cassata, travolta, da che lo ripeto. Ma l'ha detto anche lei, ma loro non hanno detto perché la scienza, appunto, non dice, per una questione di come è stata approvata. Perché è stata approvata attraverso un procedimento che è stato legittimato da 3 parlamenti, da 4 governi e da decine di magistrati, compresi i nostri consulenti, perché ha un bel da dire, ma non è che le leggi le facciamo alzandoci al mattino, perché abbiamo fiori dei procuratori della Repubblica, dei presidenti di tribunali. Ma lei esclude, cioè, esclude che non sia stato preso come provvedimento in modo incostituzionale dal punto di vista della procedura? Lo esclude? Assolutamente sì, perché se no non l'avremmo preso. Evidentemente ci siamo posti il problema. Certo, oggi prendo atto che possiamo abolire non solo il Senato, possiamo abolire il Senato, possiamo abolire la Camera, possiamo togliere il Parlamento. Ormai abbiamo una corte di 15 signori che si sovrappone al Parlamento, ma mica solo in questo caso, vale per la legge elettorale, vale per le questioni riguardanti la 194, le leggi in vigore. Naturalmente non mi è sfuggito nei 5 ultimi giorni questa pressione mediatica furibonda dagli appelli dei giuristi. L'altro giorno Radio Radicale mandava, nel giorno in cui la corte era riunita, sembrava Radio Londra, avviso ai nostri ascoltatori, il fiore sta sbocciando, avviso ai nostri ascoltatori, il fiore sta sbocciando. Perfetto, sapevano che dentro la corte il fiore stava sbocciando. Ma forse sapevano che c'era il rischio di una illegittimità, cioè lei ci vede un disegno dietro a questo. Comunque riprendiamo tra un attimo, ci raggiungerà anche il capogruppo di SEL alla Camera, Gennaro Migliore, e ci rimangono con noi Carlo Giovanardi, l'avvocato Michela Porcile, tra poco. 24 mattino. Eccoci qui, siamo con l'avvocato Michela Porcile, con Carlo Giovanardi, e ci ha raggiunto, voglio salutarlo, l'onorevole Gennaro Migliore, capogruppo di SEL alla Camera. Buongiorno. Buongiorno, eccoci Migliore. Allora, Giovanardi prima ci raccontava e diceva è stata una decisione politica, perché la Corte ha voluto chirurgicamente eliminare proprio quei due articoli, guarda caso, sull'equiparazione droghe leggere e pesanti. E dice tre parlamenti hanno poi, non hanno modificato questa legge. Lei che replica, Migliore? Penso che siano stati, come in tante occasioni, dalla legge elettorale alla legge Bossi-Fini, dei parlamenti inetti nel rendersi conto che invece quello che c'era di politicamente sbagliato e anche propagandistico era la volontà di personalità politiche come Giovanardi di investire del proprio credo ideologico tante persone. Ci siamo trovati di fronte ad una legge pessima che ha riempito le carceri, ha portato un danno di fatto anche al contrasto alla traffico di stupefacenti. Basta vedere che i trafficanti veri e propri di fatto sono pochissimi che stanno in carcere, mentre invece si è riempito di persone che magari per essere in possesso di una piccola quantità di hashish piuttosto che di marijuana si sono ritrovati all'interno delle patrie galere. È quella la politica sbagliata, quella che ha fatto Giovanardi, quella che ha costretto interi governi a doversi reggere sulla base di equilibrismi che non rispettavano la vita delle persone, non rispettavano lo Stato di diritto. La Consulta ha fatto una riparazione esattamente come nel caso della legge Calderoli, il famoso Porcellum, perché forse la politica nel corso di questi anni è stata ricattata da chi ha ritenuto di poter far prevalere il proprio, la propria esigenza ideologica rispetto a quelle che erano le questioni di giustizia, diciamo. Giovanardi, tra l'altro lei dice sempre ma non è vero, la legge mia è di Fini, che poi c'è anche Fini, non ha riempito le carceri, però adesso lancia l'allarme e dice usciranno dalle carceri. Allora, l'hanno riempito o no? L'allarme. No, beh, oggi le interviste dicono... A me scappa da ridere quando qualcuno ha detto 10.000 che escono dalle carceri, ma di cosa stanno parlando? Ma scherzi, per esempio sulla cocaina e l'eroina rivive una norma che da 6 anni porta 8 anni il minimo. No, però potrebbe esserci, perché c'è questo giallo, il ricalcolo, Flick dice di no, però alcuni dicono di sì, che per le droghe leggere, visto che hanno abbassato le pene per lo spaccio, di fatto... Gennaro Migliore mi dà perfettamente ragione, perché esattamente come ho detto io, ne fanno una questione politica. Lui comincia a parlare del merito della legge, dei parlamenti inetti, dei governi incapaci, di una norma sbagliata, invece per la norma andava benissimo. Ha depenalizzato il consumo. Non è vero che le carceri siano piene di persone che sono arrestate per il consumo, perché sono lì perché hanno rubato, perché hanno rapinato, perché hanno commesso danneggiamenti, e si vedrà nei prossimi giorni chi esce, a proposito di propaganda. Però quello che ci terrei ancora a dire è che il decreto era in materia di tossicodipendenza. Era come se avesse fatto il governo un decreto in termini di coltivazione, e la Corte non ha contestato che si parlava di coltivazione, che sono state introdotte norme sull'aeronautica. Ha detto erano tutte sulla coltivazione, però secondo noi, dice la Corte, siamo noi che nel merito stabiliamo cos'è coltivazione o no. Sì. E quindi entriamo nel merito delle scelte del Parlamento, diciamo che sì, era tossicodipendente, però voi avete dato certo sulle tossicodipendenze che a noi piacciono e le confermiamo, perché secondo noi sono in sintonia con altri, invece non ci piacciono, li togliamo. Ma lei dice la questione, no, vabbè, è chiaro, la questione dice se era politica potevate cambiarla migliore, nel senso i parlamenti successivi, invece non l'hanno cambiata, arrivano per una sentenza. No, no, ma un attimo, noi l'abbiamo detto in tutte le salse che la dovevamo cambiare, ma basti vedere anche l'esperienza di quest'ultimo governo Letta, quello diciamo alla fine dei suoi giorni in questo momento, il nuovo centrodestra, Giovanardi, hanno fatto una bandiera di questa legge, che è una legge contestatissima, che tutti considerano, quelli che ovviamente si occupano del bene del paese e non del bene della propria rendita elettorale, una legge ingiusta. Oggi viene una parola chiara da quella Corte Costituzionale che dice che esiste una differenza essenziale tra droghe pesanti e droghe leggere, e tra l'altro questa non è neanche una cosa che riguarda solo l'Italia, sì. Ci sono paesi come l'Uruguay piuttosto che alcuni stati del Nord America dove addirittura si sta facendo un passo ulteriore, che è il vero contrasto alla criminalità organizzata, che è la legalizzazione sì. E quindi anche la possibilità della coltivazione diretta da parte dei cittadini, il fatto di aver criminalizzato il consumo e addirittura recluso le persone che sono consumatori, non immaginando invece quale dovesse essere un percorso per il quale diciamo si faceva un efficace contrasto alla lotta alla criminalità organizzata, ha portato all'esplosione del commercio di droghe. Da questo punto di vista io non ho mai sentito né Giovanardi né altri spiegarmi per quale motivo il traffico di droghe è aumentato all'indomani anche di questa legge, perché lo tra doveva l'altro, affrontare, no? Tra l'altro oggi Giovanardi, cioè io non voglio farla entrare in polemiche che hanno già dato in questo senso, ma sa, la sorella di Cucchi ha detto il caso di mio fratello Stefano Cucchi non ci sarebbe, visto che è stato arrestato con 20 grammi di hashish e poi dall'arresto la morte, insomma sappiamo, non ci sarebbe stata non ci sarebbe Cucchi stato quel caso se non ci fosse stato. Ma Cucchi sarebbe stato arrestato anche domani con la vecchia normativa. Qua Cucchi, le condizioni dell'arresto ci sono tutte anche oggi con la vecchia normativa. Ma vede che Gennaro Migliore continua a fare propaganda, a fare disinformazione, a dire che in Italia si va in carcere con la vecchia legge col consumo che è stato totalmente depenalizzato, vede che usa la sentenza della Corte non per dire che... Ma sa, la questione è, se io non so, trovo una persona con 50 grammi di hashish e sono un carabiniere e considero che questa dose è una dose non per consumo personale ma per spaccio può arrestarlo, perché può arrestarlo. La vecchia legge diceva può che arrestarlo per spaccio, perché spaccio. Scusi, la vecchia legge, quella abrogata, diceva che il magistrato, qualunque sia la quantità, se non ha la certezza per il frazionamento, il comportamento, l'atteggiamento, che sia uno spacciatore, non può arrestarlo. Adesso, abrogata la legge, se uno c'ha un grammo o c'ha un chilo, e il magistrato discrezionalmente che può mettere in galera o no. Cioè, torniamo alla confusione totale di prima, nella quale chi c'ha un chilo può farla franca, chi c'ha un grammo può finire in galera ed essere condannato. Lei dice che è così. L'ultima cosa che voglio dire, due giorni fa, il commissario nazionale antimafia, dicendo le stesse cose di Paolo Borsellino, ha lanciato l'allarme dicendo che liberalizzazione e legalizzazione sarebbe il più grande regalo fatto alla mafia. Ma adesso Borsellino non è qua per poter replicare. Io devo liberare Giovanardi e lo ringrazio, ma rimane con noi fino alla fine Gennaro Migliore, l'avvocato Porcile, anche qualche ascoltatore. Migliore, non ho fatto finta di non sentire che lei ha buttato dentro il governo Letta, che alla fine dei giorni, perché è una domanda ovviamente politica anche su questo momento abbastanza convulso, gliela faccio tra poco dopo il traffico. Va bene, sentirei Mario da Roma che ci ha chiamato. Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dica. Allora, io parlo dalla mia esperienza, io faccio il volontario in carcere e sostanzialmente ho contatti continui con persone condannate o indagate per reati legati alle sostanze stupefacenti. Sì. E io sono felicissimo di questo decreto e glielo spiego così, semplicemente in tre forme Assolutamente esperienziale. La prima, per quanto riguarda lo spaccio, anche una persona che viene fermata con un chilo o con un grammo, quella è l'articolo 80 che cambiava sostanzialmente gli anni di condanna, il 74 lo spaccio e il 73 era il consumo. Sì. Però se io vengo fermato con 2 grammi di cocaina divisi in 4 bustine, sì, o con 2 grammi, può essere considerato spacciatore. Esatto, no, quello viene considerato. Il problema è che sostanzialmente la sostanza è adesso che cambia naturalmente la forma di reato ed è una cosa non giusta, ma sacrosanta. Questo è uno. Seconda cosa, dal punto di vista giuridico, io non so quante persone usciranno e via, perché magari condannate per altre cose, però le faccio l'esempio, no? Io sono il, perché questo è rivolto anche a questo, il cosiddetto piccolo spacciatore, che è più legato al consumo personale, diventa una forma di reperimento della sostanza. Sì. E via, però vengo condannato anche perché magari ho rubato, magari ho fatto quello che vuole. Con la retroattività e con la cancellazione di questo decreto, può darsi benissimo che io magari ho preso 1 anno e mezzo per il furto e ho preso i 6 anni. Vabbè. E via. Mario, però mi scusi, scusi se la interrompo, ci vuole anche un attimo di sintesi e poi mi viene il mal di testa con tutti questi calcoli. Non sappiamo ancora gli effetti pratici, come ci ha detto l'avvocato Michela Porcile stessa, che ieri ha portato questa causa avanti alla Corte Costituzionale. Non sappiamo, avvocato, ce lo può riconfermare, non sappiamo effettivamente ancora cosa succederà in questi calcoli, è così? Avvocato. Quante saranno le persone che usciranno, come ci si rapporterà con il giudicato, sicuramente quello che si può dire è che forse saranno meno quelle che accederanno al carcere. Perché è quello, sì, perché certo, tutte le sentenze non ancora definitive, quelle sono cause in corso. Esatto. Allora, Gennaro Migliore, ha sentito Giovanardi, la legalizzazione è un favore alle mafie? Beh, questo è un dibattito vecchio, sono opinioni. È un dibattito attualissimo. Cioè, io vecchio nel senso che è annoso, è da 100 anni che se ne parla, sì, se sia un bene o un male. Lei prima ha citato giustamente, dal mio punto di vista sicuramente, la tragedia della famiglia Cucchi. Io mi rivolgo a tutti quelli che in questi anni hanno infilato una norma come la Fini Giovanardi, lo voglio ricordare, in un decreto sulle Olimpiadi, pur di farlo passare, sulle Olimpiadi invernali di Torino, e dire: chi restituirà la vita a quelle persone che si sono dovute fare il carcere perché magari avevano qualche spinello in tasca? Questa è la cosa. Voglio solo dire una cosa: i programmi terapeutici del 2006 erano 6.700, nel 2012 sono 340, perché l'idea che si potesse rieducare anche al consumo, di smettere il consumo di droga, è stato sostanzialmente abbandonato con una logica completamente repressiva. Io mi chiedo chi risarcirà queste persone, che ovviamente spero che escano subito, essendo state vittime di una legge ingiusta, perché la Corte Costituzionale dice che è incostituzionale, dice cioè che non è in linea con i principi fondativi della nostra Repubblica. È inutile che ci scherza su Giovanni. Ma però riduce le pene, insomma, lo spaccio rimane riduce comunque un reato. Effettivamente riconosce una cosa che anche un bambino riconoscerebbe, che c'è una bella differenza tra droghe pesanti e droghe leggere. Il fatto che si sia voluto imporre questa uguaglianza, leggo ancora oggi delle sciocchezze che dice Fini, dice per me tanto fanno male tutte e due, in realtà non si pone il problema dell'efficacia dello Stato di diritto, e la Consulta in questo ha detto che sono incostituzionali. Però questo sì, però, mi scusi onorevole Migliore, è una sciocchezza secondo lei anche che facciano male tutte e due, cioè nel senso fanno male anche le canne? Non si può giudicare sulla base del fanno male fanno bene, anche la sigaretta fa male, anche l'alcol fa male, è una questione legata alla capacità di attuare da parte dello Stato delle politiche che possano in qualche modo mettere i cittadini di fronte a delle regole. Da questo punto di vista io sono per l'autocoltivazione, per esempio, perché penso che l'idea che si possa favorire il traffico illegale è un favore che si fa alle mafie. E il fatto che in questi anni sia aumentato il consumo consumo anche di droghe leggere, le posso assicurare che non è che è una cosa che mi riempie di gioia, ma l'idea che questo sia tutto nelle mani della criminalità organizzata mi fa veramente, diciamo così, arrabbiare. Ma questo sì, prima di farle la domanda politica, avvocato Porcile, ricordiamo il caso appunto del vostro cliente che è stato fermato, credo, a Palermo con un trasporto di 3,8 kg, diceva, di hashish. Beh, scusi, in quel caso è finalizzato allo spaccio, non credo che sia consumo personale. Sì, il problema lì era un problema di consapevolezza o meno, nel senso che lui aveva dato un passaggio a quello che è il coimputato, che poi è divenuto irreperibile chiaramente, il quale trasportava questo zaino, e gli ha sempre afferito di non conoscere quale fosse il contenuto di questo zaino. Ma quindi questa persona, in base a questa, è stata condannata, mi scusi, a quanto? A 4 anni, perché ovviamente essendo la pena edittale il minimo 6 anni, non avendo avuto accesso per sua scelta personale ad alcun rito alternativo, il minimo che potesse arrivare erano 4 anni. L'effetto qual è? Cioè, nel senso che viene liberato, viene ridotta la pena? Cosa allora succede? Lui non è al momento detenuto, ha sofferto soltanto un breve periodo di custodia cautelare, quindi attualmente non è detenuto, e l'effetto per lui sarà certamente quello della riduzione della pena, quindi l'applicazione, avremo un parametro edittale che non sarà più quello da 6 a 20 anni ma da 2 a 6, e quindi mi auguro saremo nei limiti della sospensione condizionale della pena, ovviamente. Vabbè, questi gli effetti concreti. Allora, onorevole Migliore, la questione politica, sono giorni molto molto tesi, raccontano i giornali, è possibile che entro stasera stessa Letta si dimetta, mi dica la sua previsione e il suo auspicio, diciamo, sono due cose diverse, diciamo, la previsione è cosa succederà e invece la posizione di Sell. Allora, la previsione è che alla fine questa vicenda farà del male dal punto di vista anche dell'immagine a tutti i protagonisti coinvolti, e credo che a questo punto però sia difficile che Letta possa rimanere in carica. Peraltro oggi il PD dice le cose che noi diciamo dall'inizio del governo Letta, cioè che è un governo incapace di affrontare i problemi del paese. La posizione nostra è che noi abbiamo lavorato per far opposizione e quindi per mettere in crisi questo governo, e ci aspettiamo che si riparta da una soluzione radicalmente alternativa. Se fosse solo un cambio al vertice dell'esecutivo, non credo che non sarebbe. Ma perché non elezioni? Cioè, voi quindi Sell sareste pronti a appoggiare un governo Renzi su un programma ovviamente condivisibile? Ma noi pensiamo che dopo una vicenda del genere l'idea delle elezioni non solo non debba essere scartata, ma possa essere la strada più trasparente e lineare all'indomani di una nuova legge elettorale. Penso che questo sia. Quindi elezioni, per voi sarebbe la scelta più auspicabile. Meglio certamente le elezioni di una situazione di questo genere. Dopodiché, nel caso in cui veramente, e qui diciamo siamo nel caso delle ipotesi, venisse messo in crisi il governo Letta, vedremo anche quali sono le reazioni che ci verranno. Cioè, prima di dare la fiducia vorreste ascoltare Renzi, perché poi questo è ovvio. Questo è ovvio. Però ho sentito Napolitano parlare di sciocchezze sulla questione delle elezioni anticipate. Ma ovviamente, voglio dire, non è che spetta a un partito indire le elezioni, però a me sembra che la situazione sia un po' troppo logorata, nel senso che il rappresentante del PD che viene sfiduciato dal suo partito, o è una questione personale oppure si vede che era la formula che non andava bene. Certo. Se la formula è quella del governo delle piccole intese, chiaramente non va bene neanche a noi. Ma questo staremo a vedere. Oggi sarà certamente una giornata importante. Grazie a Gennaro Migliore, capogruppo di Sella alla Camera, così come Giovanardi ci ha lasciato qualche minuto prima, l'avvocato Michela Porcile, che è stata con noi e che ha condotto e ha portato il caso davanti alla Corte Costituzionale, quello di cui abbiamo discusso per la legge sulla droga. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Vescapè in regia. Seguiteci anche su Twitter, Alino Milan è il mio profilo. A domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.